Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. E buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, discorso di 45 minuti per il Presidente del Consiglio Enrico Letta, discorso con il quale il Premier si è presentato alla Camera per chiedere la fiducia, un intervento che va dall'economia con i temi per la crescita alle riforme istituzionali. Quanto al primo tema, tra i primi interventi che il Governo si appresta a portare avanti vi sono la riduzione delle tasse sul lavoro, lo stop ai pagamenti dell'IMU di giugno per poi rimodulare le imposte sulla prima casa. E allora ascoltiamo questo passaggio del Presidente del Consiglio. Prima ricordiamo però gli SMS per scriverci al 349-238-6666. Ascoltiamo Letta sull'IMU. La riduzione fiscale senza indebitamento sarà un obiettivo continuo e a tutto campo. Anzitutto quindi ridurre le tasse sul lavoro, in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti. Poi una politica fiscale della casa che limiti gli effetti recessivi in un settore strategico come quello dell'edilizia. Includere incentivi per ristrutturazioni ecologiche, affitti e mutui agevolati per giovani coppie. E poi bisogna superare l'attuale sistema di tassazione della prima casa. Intanto con lo stop ai pagamenti di giugno per dare il tempo a Governo e Parlamento di elaborare insieme e applicare rapidamente una riforma complessiva che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. E qui abbiamo sentito proprio che Letta ha fatto proprio uno dei punti fondamentali su cui Berlusconi aveva avvertito, aveva chiesto garanzie, uno dei cavalli di battaglia del PDL, ovvero l'abolizione dell'IMU per la prima casa, o comunque la rimodulazione di questa tassa, che comunque è stata una tassa molto molto contestata dal centrodestra. Ma poi abbiamo sentito il punto fondamentale per il PDL, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, però per il PD il punto centrale è un altro, ed è, per Vincenzo, come lo sappiamo, il porcellum, cioè l'abolizione del porcello. Vi ricordo di inviare i vostri SMS al 349-238-6666 per dirci che cosa pensate del discorso del Premier Enrico Letta, e sentiamo proprio questo punto sulla legge elettorale. Sentiamo Letta. La legge elettorale è naturalmente legata alla forma di governo, ma si possono sin da ora delineare gli obiettivi fondamentali. Innanzitutto dobbiamo solennemente qui assumere l'impegno che quella dello scorso febbraio sia l'ultima consultazione elettorale che si svolge sulla base della legge elettorale vigente. Cambiarla serve non solamente per assicurare la formazione di maggioranze sufficientemente ampie e coese, in grado di garantire governi stabili, ma prima ancora per restituire legittimità al Parlamento e ai singoli parlamentari. Non possiamo più accettare l'idea di parlamentari di fatto imposti con la stessa presentazione delle candidature senza che i cittadini abbiano la possibilità di individuare il candidato più meritevole il giorno delle elezioni. Così dunque Letta sulla legge elettorale. Abbiamo i vostri primi SMS. Non mi è piaciuto il discorso, in pratica il programma del PDL, scrive Matteo, invece di bloccare l'IVA ancora questa IMU e poi addirittura 18 mesi per una verifica, ricorda Matteo. E questo, Elisabetta, è un altro punto fondamentale del Premier, ha detto tra 18 mesi faremo il punto sul programma di riforme, ma se perché? No, prenderò le opportune conseguenze. Lo spieghiamo ai radioascoltatori, 18 mesi sono il tempo minimo per fare le riforme della nostra Costituzione, che è una Costituzione rigida, così l'hanno voluta i padri costituenti, per cui bisogna fare una doppia votazione a distanza di tre mesi, insomma è molto molto farraginoso cambiare la Costituzione, ma noi venivamo da una dittatura e quindi i nostri padri costituenti hanno scelto che bisogna essere 2/3 del Parlamento, una doppia votazione a distanza di 3 mesi, ecco perché Letta si sta dando 18 mesi di tempo, Vincenzo. Sì, e quindi dicevamo, uscivamo da questo file audio sulla legge elettorale, ma il Popolo della Libertà esulta proprio per i punti economici indicati nel programma di governo. Sentiamo allora il Vice Premier e Ministro degli Interni, Angelino Alfano. Nelle prime pagine del discorso, musica per le nostre orecchie, è stato un discorso che ho condiviso dalla prima all'ultima parola, ma devo dire che nell'avvio del suo discorso erano contenuti tanti nostri valori e tante idee per le quali ci siamo battuti, dalla riduzione delle tasse ad un azzeramento delle tasse su chi assume, per gli imprenditori che assumono giovani, alla grande notizia, la vera notizia di impatto immediato, cioè non si paga la rata di giugno dell'IMU. E questa è per noi una grande soddisfazione, ma potrei proseguire: la sburocratizzazione, l'idea di un fisco amico che rimette in discussione Equitalia non nella sua esistenza ma nei suoi poteri. Io penso che le idee per le quali ci siamo battuti e che Silvio Berlusconi ha posto alla base del nostro programma di rilancio dell'economia hanno trovato non accoglienza o ospitalità ma piena cittadinanza in questo discorso. E diciamo che i nostri radioascoltatori però hanno anche un'ironia sottile. A un certo punto un radioascoltatore ci scrive: se Letta realizza anche solo un decimo di quello che ha detto, facciamo il PIL della Cina, magari. Illusionistica retorica, dice Giulia. Buongiorno, molto apprezzato il discorso di Letta, soprattutto per quanto riguarda la parte del lavoro, dice Serena. E poi Roberto Artigiano di Bergamo dice: bellissimo discorso, per me ambizioso. Io direi che è ambizioso per tutta l'Italia, Vincenzo. Sì, e poi Loris ci scrive: mai che prendono in considerazione di dimezzarsi lo stipendio. In realtà, Loris, in un passaggio il Premier Letta ha annunciato invece una cosa che non aveva neanche confidato ai propri collaboratori e agli altri ministri, ovvero: non vi sarà lo stipendio ai ministri che sono già parlamentari, e questa è una novità, ha detto Letta, perché era una legge che vigeva da decine di anni. Quindi ecco, forse questo potrebbe essere un primo passo in avanti. Ricordiamo, chi è parlamentare e adesso sta al governo prenderà solo lo stipendio da parlamentare. Vabbè, che non è che poi si muoiono di fame se prendono. Assolutamente non vogliamo fare la retorica anticassa, però. Allora, nel PD invece sembra rientrare la fronda dei dissidenti contro il governo. Soddisfatto il segretario dimissionario Pierluigi Bersani, sentiamolo. Mi pare l'impostazione giusta, stiamo sulle politiche, mettiamoci a servizio del paese, adesso basta chiacchiere, cerchiamo di dare una mano a questo governo, cerchiamo di dargli una mano sul serio tutti quanti. Mi pare che ce ne siano le condizioni, francamente, per quello che ho visto in queste ore, e quindi credo che ci sia oggi una fiducia non solo formale, ecco, che sia l'intenzione di aiutare questo governo a camminare con tutti gli enormi problemi che ha di fronte, però mi pare anche con un'intenzione molto ferma di dedicarsi ai problemi. Credo che questo sia apparso chiaro nelle parole di Enrico, e devo dire anche in una compagine di governo che ha sicuramente la freschezza, anche la competenza e la forza per crederci, perché bisogna che la squadra ci creda, e credo che sia una squadra adatta a crederci, ecco, e quindi a suscitare anche il sostegno del Parlamento. E diciamo che nei nostri radioascoltatori c'è anche chi ci sfida, dice: non direte mai quello che io ho scritto. Letta, discorso, diciamo così, pusillanime, l'abbiamo un po' pulita al nostro radioascoltatore, vogliamo dire: i tagli della politica e degli enti inutili, tutti devono essere rappresentati, anche chi è l'1%, quindi un proporzionale senza sbarramento, dice Luciano. Cioè, vedi che ci sono proprio pareri completamente contrastanti. Uno mi dice: tanto vi spazzeremo via. Ma chi bisogna spazzare? Qui bisogna prima di tutto spazzare le strade, magari. Vincenzo, che cosa dice il Movimento 5 Stelle? Sì, il Movimento 5 Stelle ha colto questo passaggio sui tagli ai costi della politica, un passaggio ampio, quello di Letta. Abbiamo ricordato l'abolizione del doppio stipendio per i parlamentari e i ministri, ma Letta ha detto anche che avvieremo una nuova stagione di riforme a partire dalla revisione dei rimborsi elettorali per i partiti. Dicevamo, il Movimento 5 Stelle è molto attento su questo punto, e allora sentiamo Riccardo Fraccaro. Sì, è stato bellissimo quel momento, perché ho visto le reazioni nei volti dei ministri che effettivamente sembravano non aver consapevolezza della cosa. Letta ha detto che non ne aveva parlato, infatti ho visto alcuni ministri sconvolti e comunque si giravano attorno. è un buon segno, ma molti punti li hanno ripresi dal programma stesso del Movimento 5 Stelle, ma questo è l'effetto che noi abbiamo sempre, di cui siamo consapevoli, che poi al di là delle critiche le buone politiche vengono seguite, sono costretti probabilmente alcuni punti a seguirle, e questo è l'elemento positivo di tutto dell'entrata all'interno della politica attiva del Movimento 5 Stelle, e l'abbiamo riscontrato anche a livello locale. Ci criticano, ma poi ci coprono i programmi, e a noi va benissimo così. E allora Letta fa solo propaganda politica, dice un nostro radioascoltatore, e poi ha preso i punti del Movimento 5 Stelle per fare il discorso, che è quello che dice proprio Riccardo Fraccaro, deputato 5 Stelle, però dice magari fanno qualcosa. Ragazzi, abbiamo un governo, facciamolo lavorare, questo Parlamento, quanto costa il mercato introito dell'IMU a giugno? Nando preoccupato. Ma i grillini applaudivano anche loro, ma noi le telecamere ce le avevamo fisse sul Letta, sul governo. Però sicuramente appunto quando ha annunciato questi tagli... hanno applaudito, credo, anche i grillini. Allora, andiamo invece proprio a uno degli snodi, che sarà quello delle riforme costituzionali. Sentiamo il neo ministro delle riforme, Gaetano Quagliariello. Io ho una guida, mi proviene da quel documento che abbiamo approvato con la commissione che ha istituito il presidente Napolitano. È una fucina di riforme. Alcune hanno tempi più brevi, altre tempi più lunghi. Il mio primo compito sarà quello di scrivere uno scadenzario, perché non è che dobbiamo attendere 18 mesi. Se il processo riformatore parte lo capiremo subito. Ecco, ma allora quali sono... I 18 mesi sono le riforme costituzionali. Ha indicato un tempo tecnico, perché come voi sapete per quelle riforme c'è bisogno di 4 letture. Ecco, ma la legge elettorale non è costituzionale. Quando la farete? Quando farete per esempio l'abolizione delle province o il taglio del finanziamento ai partiti? Ecco, ho detto che il mio primo impegno sarà quello di scadenzare queste riforme. Ovviamente posso farlo senza parlarne col Presidente del Consiglio e con tutto il governo. Se Bersani avesse portato questo tipo di programma non ci sarebbe stato bisogno dell'inciucio con il PDL, ci scrive un ascoltatore, evidentemente un sostenitore di Bersani, ma in realtà i punti programmatici sono leggermente diversi. Un altro ascoltatore ci chiede: di abolizione delle province ne ha parlato? Letta ne ha parlato, ha detto che le province vanno abolite e dare una maggiore forza, un maggiore ruolo di coordinamento con lo Stato proprio ai comuni e alle regioni. Un altro ascoltatore ci scrive: i tagli ai manager dello Stato, di questo non si è parlato, ma può essere assolutamente uno dei punti successivi del programma. C'è poi Emilio che dice: peccato che si parli ancora di abolire le province invece delle regioni. Un'altra cosa, è un lunghissimo messaggio che noi ringraziamo, però è troppo lungo per leggerlo, che parte dalla Democrazia Cristiana morta nel 92 fino all'inciucio con il Caimano, grazie a questo radioascoltatore e soprattutto grazie a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Un saluto da Elisabetta Fiorito. Da Vincenzo Miglietta.